Noi da questa mattina siamo a Palazzo Ercolani. La nostra occupazione si inserisce nelle mobilitazioni che abbiamo visto attraversare l'Italia le settimane scorse tra gli scioperi generali e a supporto della missione della Global Sumud Flottiglia. Siamo qui perché crediamo che appunto il movimento che abbiamo visto sorgere non si debba disperdere, anzi aumentare la propria forza, e quindi in primis partiamo dal luogo in cui siamo. Noi venerdì sappiamo che si è programmato un consiglio di dipartimento in cui andranno a discutersi gli accordi che la nostra università e la postura che ha preso la nostra università rispetto appunto al genocidio in Palestina e alla complicità con le aziende belliche a vario titolo coinvolte in quello che accade, e quindi abbiamo scelto di prenderci il palazzo. Questi giorni saranno un laboratorio aperto in cui discutere, confrontarsi rispetto a quello che abbiamo visto e aprire appunto alla città un laboratorio politico permanente che porti effettivamente qual è la posizione del dipartimento in quel consiglio e ci arrivi costruendo assieme la nostra analisi e proponendo una serie di incontri, iniziative, dibattiti e discussioni sulle appunto più varie questioni che stanno attraversando la situazione attuale, a partire dal genocidio in Palestina, al di là del piano di pace o meglio di tregua che è stata proposta, e sappia insomma interrogarci anche spingendoci a rimmaginare l'università come uno spazio in cui organizzare, pensare e costruire una società diversa. Certo, ecco, nei mesi scorsi l'università ha preso posizione anche in un documento votato dal Senato accademico, però alle parole non sono seguiti i fatti? Sì, esatto, nel senso che subito dopo quel documento c'è stato un grande clamore mediatico e abbiamo visto tanti dichiararla come una vittoria. Noi sappiamo che nei nostri dipartimenti continuano ad esserci accordi di questo tipo, come per esempio a quello di scienze politiche, in particolare appunto nella più ampia definizione di quello che è il comparto bellico e sono le aziende di morte. Noi crediamo che alle parole debbano seguire i fatti, e quindi a partire dai dipartimenti, come stanno facendo in tanti tra collettivi, rappresentanti studentesche, studenti e studentesse, fino agli organi centrali, si debba dare concretezza a quello che si dice, quindi tutti questi rapporti vadano tagliati, e per questo vogliamo anche costruire uno spazio di discussione su questo in questi giorni.